Ho moltiplicato per te le mie voci, i miei vocaboli, le mie vocali, e grido adesso che sei il mio vocativo.